Via Via nazionale. nazionale. This street, built Considerata by un the tempo Savoy, was l'arteria più once considered the importante di most Roma, important voluta dai thoroughfare in Rome. Savoia, oggi è Today it is solo un only an grande important commercial centro, sede street di with many uffici, offices, banche e banks and centri stores. commerciali. This Questo straight road rettilineo, was decorated all'inizio at del the beginning of the secolo, century era with rows of decorato con trees that filari di softened the alberi austere che ne style of its addolcivano lo building. stile severo delle Via Nazionale costruzioni. is paved with Via basalt Nazionale ha cobblestones un called San pavimento di Pietrini. basalto, detto Today San asphalt has Pietrino. substituted the Ai solid nostri giorni material l'asfalto that ha originated in the sostituito per period St. via Peter's di was being città built. questo solido In elemento fact, che Piazza ha San Pietro was the originariamente first la place it grande was piazza di used San and has Pietro, given quella this prima ad material its name. adottarlo, da cui il nome.